La vita è fatta di svolte, svolte indotte e svolte traumatiche. E poi c'è un altro tipo di svolta. È una svolta che non riusciamo a vedere e non sappiamo nemmeno definire, perché nessuno ha ancora trovato la definizione giusta per l'amore. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Possono avere su cosa significhi amare idee molto diverse e persino opposte. Alcuni credono che l'amore non sia per tutti, perché i bambini sono troppo piccoli e i genitori troppo grandi per essere innamorati. Altri pensano che si possa amare a tutte le età, che ci siano solo maniere differenti di essere innamorati. Alcuni pensano che non si possa amare senza essere corrisposti, perché non ne vale la pena e ci fa soffrire. Altri credono che amare sia offrire il proprio amore senza chiedere nulla in cambio, perché è il dare che ci rende felici. Alcuni pensano che l'amore ci permetta di essere noi stessi, che ci faccia esistere. Altri, invece, ritengono che l'amore ci scombussoli, che ci impedisca di vivere e che si stia meglio da soli. È una portata importante quella di oggi. Io me la segno, me la sono già segnata. Oggi è venerdì 19 novembre del 2010. Quello che ho appena letto sono delle piccole frasi tratte da un libro che si chiama Il libro dell'amore e dell'amicizia, che è scritto da un filosofo e un pedagogo, direi, francese, che si chiama Oscar Brenifier. Ne avevo già parlato a settembre, quando mi era capitato di andare a vedere questo tizio che presentava dei suoi libri alla Triennale di Milano. Il suo libro più famoso, che è pubblicato dagli ISBN qui in Italia, si chiama Il libro dei grandi contrari filosofici. Lui è un filosofo che fa della filosofia per bambini e, come molte delle cose che sono per bambini, non sono solo per bambini, ovviamente. In questo caso è proprio il libro dell'amore e dell'amicizia. Ci sono concetti piccoli piccoli, semplici semplici, ma che proprio perché sono semplici semplici, ogni tanto è meglio ricordarseli. Oggi si parla di svolte, non so se l'avete capito, credo di sì, da quello che ho raccontato e anche per quelli che frequentano il profilo del programma, che è profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, credo che sia molto chiaro. Oggi vorrei sentire solo quelle persone che sono lì con i nervi scoperti, come ama dire sempre Tiziano Bonini, persone che in questo momento preciso della loro vita, cioè il 19 di novembre del 1915, del 2010, stanno affrontando per scelta, o magari no, una svolta. Una svolta importante però, tanto ormai l'abbiamo capito, no? Le svolte che riguardano le parti importanti della nostra vita riguardano sempre tre cose. Riguardano l'amore, riguardano il lavoro e riguardano la salute. L'oroscopo. Non ci si muove da lì, se è una svolta che riguarda che avete cambiato palestra, non è una svolta importante. Se avete deciso di diventare vegetariani, manco quella è così importante, anche vi sembra così. Se avete deciso che non mangiate più la pizza al pomodoro, anche quella non è una svolta importante. Tre cose: amore, lavoro e salute. Di questo stiamo parlando. 800240024 349-238-6666. Marco, ad esempio, mi dice: io sto per lasciare un posto fisso ben pagato per provare a vivere viaggiando. Incontro il capo fra un paio d'ore. Sono due giorni che mi agito, ma cerco sempre di non chiedermi se ho fatto la scelta giusta. Ormai, comunque, è fatta. Marco, 349-238-6666. Questo messaggio me l'hai mandato su Facebook questa mattina. Probabilmente il capo l'ha incontrato. Se stai ascoltando, chiama immediatamente. 800240024. Oppure manda un messaggio che ti richiamiamo. 349-238-6666. Elisabetta, questa è una storia passata. Rientro dalla prima maternità e dopo un mese non ce la faccio più a star dietro ai ritmi del mio amatissimo lavoro. Un giorno, con le lacrime agli occhi, dico basta. Apro il Corriere della Sera agli annunci di lavoro per cercare qualcosa di più regolare. Il primo annuncio che leggo sembra ritagliato per me. Faccio il colloquio e mi assumono. E così ho passato i successivi 15 anni in questa azienda in cui siamo cresciuti assieme, in un'esperienza professionale unica. Fernando ancora, il 15 aprile del 2000, una chiamata mi dice: vuoi venire in Italia? Io allora studiante di auditoria, allora credo che sia studente auditoria, non so cosa vuol dire auditoria. 349-238-6666. Ah, forse è lo studente che non partecipa agli esami ma solo ascolta, giusto? Sì, è uno spagnolo sicuramente. Beh, però c'è un nome che adesso non mi viene. Comunque, sì, stringo, Bonini, stringo. Insomma, studiante di auditoria nell'università, con fidanzata e tutto, decido che è il momento di fare un viaggio prima di diventare marito. Oggi, dopo 10 anni, non sono più tornato e mi trovo così bene che non so se riuscirò mai a tornare. Che fantastica storia è la vita. Cos'era Venditti? Che fantastica storia è la vita. Vuoi dirmi che Fernando è arrivato dalla Spagna e cita Venditti? 800240024 349-238-6666. È una puntata importante per me e spero che lo sia anche per voi. Io so che ogni tanto vi do il destro per insultarmi, però sappiate che quando prendo una decisione, un motivo quasi sempre c'è. Io non lo so esattamente come arrivino i momenti di svolta. Quello che so è che il mio è arrivato. Avete presente di cosa parlo, no? Di quelle volte in cui la tua vita si trova da un momento all'altro su dei binari diversi da quelli su cui ti eri trovato per anni. Dei binari a cui praticamente non pensavi nemmeno più, perché ti ci muovevi sopra da un sacco di tempo. A grandi linee direi che si possono individuare 3 tipi diversi di svolta, per quanto mi riguarda almeno. La svolta del primo tipo è quella traumatica, cioè un evento inaspettato irrompe nella nostra vita, senza preavviso, in maniera violenta. Tipo ti rompi una gamba, perdi una persona cara, vieni lasciato dalla fidanzata e lì ti accorgi che la tua vita ha preso una piega che non ti aspettavi, non così all'improvviso. Quella è un tipo di svolta obbligata, che spesso è molto dolorosa. Sono quelle cose che si raccontano a distanza di anni e che poi magari ci si riesce pure a cavarne fuori una morale oppure un insegnamento, ma nel momento in cui la vivi vorresti solo che non fosse mai successo e pensi che non riuscirai mai ad andare avanti. La svolta del secondo tipo, quella è la svolta indotta. È una decisione che prendiamo nel pieno delle nostre facoltà, spinta da un'esigenza fisica, psicologica, etica. Niente intorno a noi ci costringe a farlo. Però noi abbiamo deciso che è così che deve essere. Sto parlando di cose tipo mettersi a dieta, ad esempio, o smettere di fumare, iniziare a correre, ma anche andare in chiesa, cercarsi un lavoro, oppure iniziare a dire sempre e solo la verità. Di solito partono tutte da affermazioni molto semplici, tipo basta, da oggi smetto di, oppure basta, da oggi inizio a. È una svolta che è semplice da decidere, però è difficilissima da mettere in atto, perché non è causata da agenti esterni, ma ha a che fare solo ed esclusivamente con la nostra forza di volontà. È la svolta del terzo tipo. Quella invece è la più misteriosa, è la più inafferrabile. Quando te ne accorgi tutto è già accaduto. Lei ti ha lavorato ai fianchi in maniera silenziosa e ti ha fatto prendere una direzione che non solo non immaginavi, ma non pensavi nemmeno che esistesse. È la svolta dolce. Ecco, a dispetto del suo nome però, questa è la svolta più coriacea, è la più inesorabile. E lavora lentamente, lavora per allagamento. È come un'onda di marea. Sapete grosso modo, no? Le maree sono causate dalla luna e dal sole e dall'attrazione che i due corpi celesti effettuano nei confronti della Terra. Non so esattamente come tutto ciò avvenga, però la cosa che mi colpisce è che le maree sono causate da qualcosa che sta lontanissimo da qui. L'onda di marea poi non la vedi arrivare, cioè non è come un cavallone con la cresta bianca di spuma, non è di quelle che i surfisti possono cavalcare, perché è lenta, è quasi invisibile all'occhio umano. Eppure è inarrestabile, e mentre tu sei indaffarato a fare altro, ad un certo punto senti l'acqua alle caviglie. È lì che allora ti guardi in giro e ti accorgi che il paesaggio è cambiato, che non c'è più la spiaggia e non c'è più nemmeno il molo. E un po' ti fa paura, perché in un attimo ti ci ritrovi immerso fino al collo. Eppure è strano, perché stare in quella marea, che è arrivata senza avvisare e ha cambiato il mondo intorno a te, adesso all'improvviso ti sembra la cosa più bella del mondo. Ecco perché la svolta dolce, quella che sale come un'onda di marea, è la più forte delle tre. Al punto che quando arriva non lascia scampo e si trascina dietro anche le altre. È una svolta che proprio perché non riusciamo a vedere, non sappiamo nemmeno definire, perché nessuno ha ancora trovato una definizione per l'amore. The Ormai quasi 2 anni fa io sono stato travolto da una svolta traumatica. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. È accaduto da un giorno all'altro, con una lettera in una bottiglia. Appena successo ho pensato che fosse un modo stupido, stucchevole di chiudere una storia. Poi, come sempre succede, è passato del tempo. E già ora comincio a prendere le distanze. Penso che in fondo non c'è un modo giusto e uno sbagliato per lasciare una persona. Forse questo è proprio uno di quei casi in cui alla fine la sostanza vale davvero più della forma. Perché alla fine di tutto ciò che ti ritrovi è che sei da solo con la tua vita. Punto. Ecco, questa è stata la mia svolta traumatica. È stata imprevista, è stata dolorosa. Ed è stata ovviamente travolgente. Da qui, per evitare di essere portato a valle dal fiume in piena, ho deciso di provare a mettermi in salvo e di nuotare fino alla riva. E quindi ho messo in pratica la mia prima svolta indotta. Cioè mi sono messo lì, ho catalogato tutti gli oggetti della mia vita, gli ho scattato delle foto e li ho venduti mettendoli all'asta su eBay. Non è stato facile, La parte più complicata è stata proprio perseverare. Però alla fine l'ho portata a casa. Ma soprattutto alla fine, tutta questa storia mi ha lasciato un'ottima sensazione, ed è quella di essere in grado di portare a termine una cosa che avevo deciso di fare. È un misto di autostima, di godimento e di consolazione, qualcosa che ti dà un po' la misura di chi sei. È una piccola sfida contro nessuno che hai vinto. Da lì per tutta l'estate ho pensato che quella potesse diventare una specie di droga, come una sorta di dipendenza da piccole soddisfazioni. E quindi mi sono lanciato un'altra sfida, quella della verità. Ho deciso che avrei provato a dire sempre solo la verità. Ho scelto un'altra svolta nella mia vita, una svolta che chiunque potrebbe mettere in atto, cioè alzarsi una mattina e smettere di dire bugie, piccole o grandi che siano. Ho pensato che ormai le svolte indotte erano il mio forte, che avrei potuto portare a termine anche questa piccola missione. Quindi ho cominciato a farlo. Ho cominciato a farlo con i miei amici, con i miei genitori, con tutti i parenti, pure al lavoro. Ho provato a farlo qui, in radio, in diretta e fuori onda. E ci sono riuscito, quasi sempre. Molti mi hanno scritto che facevo bene, altri che era una stupidaggine. Alcuni hanno provato a replicarlo, altri mi hanno detto che era un atteggiamento ipocrita e opportunista. Sono passato attraverso a tutto quello che succede in 3 mesi di vita. E poi, una notte, mi si è rotto un tubo dell'acqua. Sono sceso dal letto e la casa era allagata. Ho cercato di sistemarlo, ho trovato una vecchia scatola sotto le piastrelle. Lì credevo di aver riparato il tubo. Invece alla fine, quando ho riconsegnato la scatola, mi sono trovato con l'acqua fino al collo. Ma non era quella del tubo rotto. Era l'onda di marea, che finalmente si era alzata. Down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. I'm going down. Insomma, ho deciso che basta. Non voglio più dire sempre e solo la verità. Non sto dicendo che sia sbagliato, Così come non credo che sia giusto in maniera assoluta. Credo che sia una scelta che si può decidere di fare come di non fare, ma che comunque questa è una scelta indotta, cioè appartiene a quella categoria di svolta, quella dello smettere di fare qualcosa o iniziare a farne un'altra. Come tale però non è sufficientemente forte da resistere ad un'onda di marea. La svolta dolce nel mio caso ha già modificato la mia svolta indotta. Ecco perché ho deciso di abbandonare la mia decisione di dire sempre la verità. È perché ora c'è qualcosa che è più forte e quindi non serve più. La mia onda di marea l'ho incontrata in un'isola di fronte a Napoli. Mi verrebbe da dire per caso, ma non è stato per caso. Perché in quel posto c'era andato per un motivo ben preciso e lei era lì. Eppure non mi sono accorto subito che mi stava avvolgendo, Non è stato come quando sono sceso dal letto e ho pucciato i piedi nell'acqua. Ci ho dovuto parlare un po' e poi fare un viaggio in auto di 9 ore insieme. Ho dovuto stare con lei, guardarla, ascoltarla, eppure ancora non me ne ero accorto. Me ne sono reso conto quando lei è andata via, in auto, dopo avermi lasciato di fronte a casa. È stato allora che mi sono guardato intorno e mi sono accorto che il paesaggio era cambiato. E non mi interessava più quello che facevo prima, ciò che ero prima e nemmeno quello che avevo scelto di fare. Ho capito che questa cosa, così lenta e totalizzante, era più forte di me, era più forte di Giulia, della vendita degli oggetti e della verità. È una cosa che ha un nome che tutti conoscono, che fa rima con cuore e fiore, ma che fa quasi paura nominare, perché la paura è quella che lì dentro ci potresti annegare. Dopo 14 anni la svolta, un bizzarro pomeriggio di novembre mi dice: termina qui la nostra esperienza decennale. E uno dice: boh, la lascerà, sarà la sua fidanzata. Invece no. Ti lascio perché ho deciso di diventare fedele. Io soffro, mi allago di dolore, ma ringrazio la sua svolta perché alla fine riacquisto la mia libertà e forse mi riprendo me stessa. Bacio Monica da Firenze e qui siamo all'amore. Ieri la svolta, oggi trasloco, torno da miei dopo 6 anni, lascio la mia casa in collina, 6 mesi per riorganizzarmi e poi si parte di nuovo per un nuovo lavoro, Roma o Brasile. Visto che c'ero e la svolta ormai l'ho presa, ho deciso anche di rubare la fidanzata ad un tipo che non se la merita e a lei ieri sera gliel'ho comunicato. Francesca, preparati. Qui quindi c'è amore e lavoro e ci siamo, e via, è una che porta l'altra. È un momento sofferto, un grande amore nella mia vita, B, ma sono già occupato, D. È dura decidere, ma penso che abbraccerò B, ma costerà lacrime. E poi uno mi dice che la definizione per amore è una febbre, va bene. Poi c'è un messaggio che dice che auditore è semplicemente uditore o cultore della materia. Luca, no, Tiziano non è d'accordo, è un'altra cosa, dice che è un'altra cosa, ma non è di questo che stiamo parlando di una svolta che sta cambiando la vostra vita, che vi siate imposti o che non vi siete imposti. Ce n'è uno che dice: da 3 ore il mio capo ha deciso di smettere di fumare e ciuccia caramelle alla nicotina, sto diventando giallo ma è divertente. Emiliano e Luciano, il capo, Luciano è il capo, ok, non è una svolta fondamentale, però ha a che fare con la salute anche questa, quindi ci siamo. Non devo più tormentarmi per chi ha tutto e poteva avere anche me, ma forse sono in più. Io volevo essere unica, amante, ma unica. Ho aspettato per un caffè anche stamattina, un caffè alla settimana. Da oggi non ne bevo più. Paola. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto lo so dove siamo. Siamo al mare, siamo su un'isola. Si vedono delle barche ormeggiate, c'è un ponte che collega, è un istmo di una parte dell'isola con l'altra parte dell'isola. Ci sono un sacco di casettine bianche lungo una spiaggia, il cielo azzurro, ci sono le nuvole e io so che isola è. Enzo Scotto, 34 anni. Questo nella foto è l'isolotto di Vivara, una riserva naturale collegata all'isola di Procida. È un vero e proprio paradiso terrestre, purtroppo non visitabile da tanto, troppo tempo. Spero che un giorno non troppo lontano potremo tornare a dire: io sono qui. Non volevo dire nulla contro Enzo, ma io comunque all'isolotto di Vivara ci sono andato perché c'è un cartello così vietato l'ingresso su un cancello, ma tutti lo scavalcano. Quindi si può andare, addirittura quando sono stato io avevano fatto dei buchi nel muro come per farci dei gradini per scavalcare, la mattina avevano tappati degli operai con del cemento, il pomeriggio già non c'erano più. 800240024 3492386666. Mia moglie fa delle torte decorate meravigliose, ha cominciato a vendere per conto suo, che svolta! Emanuele, vorrei che ti sentisse tua moglie. Ciao Matteo, non sto capendo un tubo, ma non sei il solo. Prima o poi lascerò mia moglie, ci sto arrivando. Mi serve una spinta, un po' di coraggio. Fabio, non chiederla a me. Sono alla svolta traumatica indotta, ora via la coerenza rispettata per dovere. Via gli schemi e partire con la vita. Matteo. Dai Matteo, su! Trasloco, secondo figlio in arrivo. Ieri sera ho organizzato la prima conferenza nell'ambito del mio nuovo lavoro. Andiamo direttamente da Daniele, provincia di Cremona. Pronto Daniele? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Senti, dimmi qual è la svolta che stai mettendo in atto. La svolta che sto mettendo in atto è con mia moglie, esattamente il 3 di dicembre partiremo per la Cina per andare ad adottare un bambino. In Cina? In Cina. Da quando è che si adottano i bambini in Cina? Ma diciamo è un anno che l'associazione a cui ci siamo appoggiati opera in Cina, quindi siamo stati indirizzati. Quanti anni avete, Daniele, tua moglie? Io ho 40 anni, mia moglie ne ha 34. E avete altri figli oppure il primo? No, non ne abbiamo ancora, visto che non arrivavano abbiamo optato per questa strada. E sapete già quanti anni ha? Oppure... Il nostro pischelletto ha 4 anni, sì? Si chiama Fuzai e gli abbiamo affiancato il nome Giorgio in italiano. Ok. E niente, è un bimbo vivace. Ma quindi avete già tipo la foto del bambino, ve l'hanno sì, già mandata? Sì, abbiamo 3 foto, abbiamo tutta la sua storia, proprio in Cina sono anche precisi e attenti alla storia dei bambini, a curarli. Ha avuto anche dei problemi di salute, l'hanno stato operato da... Senti, bambini. Daniele, avete già preparato tutto? La camera, il letto? Sì, devi vedere uno spettacolo, la cameretta è bellissima. Mandami la foto. Io sono qui, @radio24.it. Daniele, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie anche a te. Ciao Crepi. Ciao. Andiamo da Daphne da Novara. Pronto Daphne? Pronto, ciao carissimo. Ciao, buongiorno, come sono stai Daphne? Un po' agitata. Ma di bene, cosa, bene, figurati. Grazie. Daphne, quanti anni hai? 30. Ci conosciamo magari? Tu, che scuola hai fatto? Le magistrali. Le magistrali, no, hai fatto l'Antonelli, però erano lì. Sì, erano vicini. C'è in mezzo il Carlo Alberto. Però. Sì. Vabbè, dimmi qual è la tua svolta. Allora, la mia svolta è l'iniziare a credere nell'amore di Dio. Lo so che ti sembrerà una cosa stranissima. No, non mi sembra per niente, anzi, mi sembra la svolta per eccellenza proprio. Sì, per eccellenza, esatto. Per cui io avevo tutto, una bella famiglia, sono sposata, una bambina, non mancava niente, un bel lavoro, una famiglia benestante, però mi mancava comunque qualcosa, non ero felice, sì, non ero serena. E diciamo questa serenità la sto ritrovando in Dio. Ma scusami Daphne, dicevi avevo una famiglia, ma ce l'hai ancora la famiglia? Sì sì, ce l'ho, sì, avevo, nel senso che parlavo al passato, sì sì, ce l'ho ancora attualmente. Senti, certo. Ma ad esempio questa cosa qua avviene veramente come ce la si immagina, con una folgorazione, oppure è un percorso lento? È un percorso lento. Io ti dico, questi 30 anni di vita fatti di alti e bassi, come penso per tutti. Certo. Ho capito che la cosa più importante nella vita è Dio, è l'unica cosa che rimane. E come la frequenti questa nuova convinzione? Attraverso delle letture? Attraverso delle letture, sì, frequentando la domenica un gruppo di persone, sì, pregando e soprattutto ricercando, come te lo posso spiegare? Dio, direi, ricercando quella Dio, roba lì. Ricercando Dio, okay. Sì, però più che altro mettendo in pratica realmente quello che lui ha detto. Ok, e stai meglio, Daphne? Cioè, sì, io prima ero la classica persona che giudicava tutti, per cui giudicavo male, mi fermavo all'apparenza. Sì, sì, sì, insomma, ho capito. Insomma, Dio è pacchetto completo, nel senso che adesso, esatto, ti senti meglio, perfetto. Sì, mi sento meglio, riesco a vedere le persone intorno a me con un occhio diverso, riesco bene a vedere me con un occhio diverso. Benissimo. Daphne, ti faccio tanto in bocca al lupo e grazie mille. Sì, io ti ringrazio. Ciao, grazie, ciao, a te, alla prossima. Mille, ciao, ciao. Prima è arrivato un SMS di quelli per cui io mi arrapo. Allora, nel 1989, dopo essere stato scartato dalle selezioni per le visite da carabiniere, parto per Marsiglia e... Obagne, vabbè, non è che dovete urlare di là dal vetro come se fossi l'unico imbecille che non sa come si pronuncia. In quattro che vi ho sentito dal vetro, figurati. Mi presento al centro di reclutamento per la legione straniera francese. Dopo 6 mesi di addestramento massacrante, alla faccia dell'arma, firmo il contratto. Oggi, dopo 20 anni, sono in pensione e con tutta la vita davanti, a 43 anni. Oggi posso solo ringraziare di essere stato scartato, ma allora che delusione. Gerardo da Pisa. Pronto, Gerardo? Buongiorno Matteo. Buongiorno, senti, tu hai 43 anni. 43 anni, sono del 67. E quindi sei entrato nella legione straniera a che età? Nell'89, a 22 anni. Senti, quella svolta lì è una svolta che tu ti scegli, quindi è indotta, ma è molto traumatica. Ma guarda, io avevo fatto il militare dei paracadutisti, sì, poi mi ero fatto male prima di fare la rafferma, non mi hanno raffermato. Congedato, ho fatto la domanda ai carabinieri, ma senza raccomandazione non sono andato da nessuna parte. Per la delusione ho preso un biglietto per l'andata per Marsiglia e mi sono presentato lì davanti, mi hanno preso, mi hanno rivoltato come un calzino per 6 mesi, un addestramento massacrante. Dimmi 2 o 3 cose che rappresentano l'addestramento massacrante. Cioè, cosa vuol dire rivoltato come un calzino? Nel senso che ti facevano tutte le analisi possibili e immaginabili. Loro già nell'89 erano tra i pochi che facevano l'analisi per vedere l'HIV. Uh-huh. Cioè nell'89. Sì. Poi, ma le prove fisiche, quelle per cui ti dicono che non dormi la notte, che vai in mare anche d'inverno? Sì, vai in mare d'inverno, fai lanci col paracadute di notte dall'elicottero in mezzo al mare, senza salvagente, dormi pochissimo. Senti, e missioni invece poi, missioni dove le hai fatte? Missioni, no, io feci soltanto 6 mesi della guerra, nella prima guerra del Golfo, e poi dopo mi mandarono direttamente in Guyana, dove sono stato per il resto delle... La Guyana francese, giusto? In Centro America, nella foresta amazzonica. E lì che cosa ci fa? Che cosa ci fa la legione straniera in Guyana francese? Lì fa il servizio d'ordine per il centro missilistico dove partono i missili Ariane che portano i satelliti nello spazio. E in più c'è la scuola di sopravvivenza e combattimento in giungla, dove si addestrano gli altri legionari, ma anche gli altri eserciti di altre nazioni. Senti, e dopo 20 anni di vita come quella, tu adesso sei tornato a vivere a Pisa? Io sì, sono originario di Roma, però sto a Pisa momentaneamente da un mio amico. Io sono andato in pensione con lo stipendio, ovvero intorno ai 5.000 euro al mese. Perciò non so quello che faccio. Boh. Infatti, perché questa è la domanda, perché cioè tu hai svoltato a 22 anni, adesso sei a 43 e ti tocca svoltare un'altra volta, perché dopo una vita così cosa può fare uno a 43 anni? Quello che può fare un legionario sono tante. La prima cosa ti cercano per fare il mercenario. Ah, vabbè, poi immagino. Comunque, insomma, hai in mente di continuare a lavorare, di fare più o meno un lavoro fisico legato alla sicurezza o... No, perché non trovo la stessa professionalità che ho trovato in legione. Gerardo, grazie mille per la tua telefonata. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Oggi mi è arrivata questa mail anche, che vi leggo velocemente perché abbiamo tipo 25 secondi e già stanno scadendo, sono quasi 20, tra poco saranno anche 15. Mi piacerebbe poter identificare con un evento preciso, romantico, il punto di svolta, il mio punto di svolta, ma più ci penso e più mi rendo conto che in realtà è tutto un divenire. Ho sempre immaginato che la svolta fosse come un fulmine, che avrebbe rischiarato e dato una luce nuova a tutto ciò che osservavo, e che quella luce avrebbe cambiato tutta la luce di lì a venire. E poi un giorno mi sono imbattuto in una citazione. La vita è un processo in divenire, una combinazione di stati attraverso cui passiamo. Le persone falliscono dove vogliono crearsi uno stato e rimanerci. Quella è una specie di morte. A lunedì.